Random nine. Buonasera a tutti e buonasera a tutte i wombat e le wombat in ascolto. Buonasera anche da parte mia. E dopo un po' siamo tornati su queste frequenze. Davvero, sulle frequenze della Wombat Radio. Vabbè, sì. il primo maggio, giustamente, festa dei lavoratori, dovevamo stare fermi, cioè, lavoratori della radio. Vabbè, tutte le scuse sono buone. Sono buone. Siamo presi un paio di settimane. Sì, no, sì, perché ci sono sempre un monte di problemi, però noi cerchiamo sempre di esserci e vediamo un po', non diciamo nulla, però... E abbiamo anche detto, no, dai Paolo, tutto a posto, potrebbe andare peggio, sì. No, potrebbe piovere, brutto. Calava la temperatura, alla fine stava anche per nevicare, ma insomma, e poi nonostante tutto siamo qua, nonostante la partita della Fiorentina, che però ce la stiamo guardando anche, zitti zitti, abbiamo abbassato, casomai vi facciamo anche un po' di radiocrona, no, oh. Non la facciamo, no. Comunque se, in realtà non vorrei inibirti, se la vuoi fare falla, no, non ti preoccupare, no, magari se si segna, se non si segna no, se si perde non si dice nulla. Ma vogliamo ricordare ai nostri... Sì, è meglio, dai. Ai nostri che, volendo, ci possono ascoltare anche sui 13.59 in onde medie, in AM, sì. E che se avessero voglia di comunicare con noi, si possono digitare sul loro banner di ricerca, diretta a wombat.vado.li. Vi si aprirà un pad sul quale potete scrivere e comunicare in diretta con noi. E aspettiamo almeno i nostri fedelissimi che ci sono. Sì, qualcuno in ascolto c'è, lo so, ha già mandato un messaggio, anzi, saluti, baci, bene. Alla costa. Buono. Allora, partiamo, io volevo partire con un brano molto molto bello, secondo me, degli Stormy Six, Stalingrado, un classicone degli anni 70, prog, imp, eccetera, questi sono gli Stormy Six, brano che poi appunto Andrea mi ricordava che è stato fatto anche dalla banda Bassotti. Sì, i Bassotti l'hanno coverizzata. Sì. So se anche, probabilmente anche qualcun altro. Ma sì, sì, però insomma, questo è l'originale. Ecco, che a noi ci garbano gli originali. Ecco, andiamo. Stalingrado in ogni città. L'orchestra fa ballare gli ufficiali nei caffè. L'inverno mette il gelo delle ossa, ma dentro le prigioni l'aria brucia come se cantasse il coro dell'Armata Rossa. Era Stalingrado. Stalingrado, ma... E nel frattempo no, andiamo avanti. Ha preso un gol. E vai. Ebbene, io un bel 1-0 per i Bruges. Sì, vediamo un po' come va a finire. Bene, io invece guarda, ho tirato fuori dal una profetica canzone che rispetto al risultato, non so. rispetto a alcuni accadimenti della vita, sì, che non mi riguardano in prima persona. Zitto, ma, zitto! Ma può succedere? No! Sì, succede anche di questo. Scusa. Ma sto parlando del pezzo di Billy Robinson, soprannominato Bobo Bojangles, che è un ballerino, attore, cantante di hip-hop americano, morto nel 1949, perché lui era del 25. E ha scritto vari pezzi, tra cui uno molto simpatico, che si intitola I Think I Just Shit in My Pants. Quindi io vi direi di ascoltare il testo perché sì, è divertente. E insomma, oh, shit happens. We'll be right back. stomach turn and my face turn red. I think I just shit in my pants. No idea how it happened. I think I just shit in my pants. The smell is so bad, nobody's laughing, yeah. I guess I just shit in my pants. Woo! What did I expect after eating that beef? Now the smell of my poop is all over my cheeks. I tried to run to the bathroom, but now it's running down my leg. I tried to excuse myself, but I don't want to make a mess. I think I just shit in my pants. No idea how it happened. Come here. I guess I just shit in my pants. Shit in my pants. And nobody's laughing again. Woo-hoo-hoo! Shit in my pants. I think I just shit in my pants. Shit in my pants. It smells like shit and it wasn't fart. It's gotta be shit, I know it's shit in there. Shit in my pants. Shit in my pants. Beh, gran bel pezzo questo, bello vitale, eh? Sì, sì, sì, sì. No, poi insomma, racconta un divertimento, un accadimento leggermente tragico, ecco. Sì. Però insomma, la musica sopperisce anche al dolore. Sì, è al puzzo di merda. Vabbè, noi andiamo avanti e io volevo mettere appunto una traccia di Enzo Iannacci, saxofone, e un brano insomma che fa parte anche della colonna sonora, e niente, insomma, il grande Enzo va sempre messo, secondo me. Sempre? Insomma, se sempre, no, no, no, tutte però, le puntate no, no, però insomma già abbiamo già passato diverse volte. Sì, abbiamo ricordo anch'io, ma un pezzo l'ho messo anch'io. Hai visto, quindi. Noi abbiamo degli gusti comuni. Sì, infatti, anche se appunto erano due settimane che non ci si sentiva, nel vedere, vedi, ci leggiamo nel pensiero. Accidenti, che bellezza, via Enzo Iannacci, saxofone. Vuole parlare con qualcuno perché si sente solo. Mi dica quello che vuole. Se è così. Se invece è venuto qui per i poveri. Guardi che l'abbiamo già dato. Abbiamo dato un sassofono. Anzi, scusi, faccia un po' vedere. Mi sembra proprio quello lì. È quello lì. Scusi, non vede com'è pallido? Ma da quanto tempo è che non lo porta al bar? Troppo pallido, il sassofono. Sassofone, bell'animalone. Sassofone, bell'animalone. Sassofone, off. Eccoci qua. Eccoci di nuovo, portavo un po' distratti, direi. Sì, no, in no. In questo momento, ma se... io passerei direttamente in pezzo dopo. Cambio passo. Vai, cambio passo. Cambio passo. Perché volevo mettere un... non è che vorrei mettere, lo metto. Do sfogo alle mie voglie mettendovi un brano degli Extrema, gruppo thrash metal nostrano che ormai dagli anni 90 ci accompagna. 90, Sì. Ah. Non sembrava anche prima. E volevo mettere un pezzo. Ora si ricerca per bene. Sì, sì. No, no, ora voglio fare il pignolo. Poi sbaglio. Sì, ora si guarda. Sì, sì. Però probabilmente c'hai ragione anche te. Vediamo un po', via. No, ora guardo. Sono un gruppo musicale thrash metal italiano formatosi. C'hai ragione. Guarda, attrezzo sull'Adda nel 1985. Ah, e ora si potrebbe andare anche a vedere anche di quando è il primo album. Ora puoi vedere. Comunque no, io mi ricordo qualcosa. Ecco. Il primo album però è del 93. Allora tale scena, sì. Comunque il pezzo in questione è Paralyzed, che è tratto dall'ultimo album, che è del 2019. E si chiama Headbanging Forever. Non smetteremo mai di fare headbang nonostante le cervicali. Sì, oggi siamo messi bene tutti e due, vedo, Sì, oggi e per sempre, direi. Sì, no. Cervicale forever. Da qui in là. Estrema, paralyzed. I can't run, I can't hide. No, notevole, no, dicevo appunto questi gruppi sono anche degli anni 80, fine anni 80-90 italiani, e avevano un loro perché. Io torno sempre lì, magari se fossero stati, non so, nell'inglese o forse anche un'altra distribuzione. Senti, non... perché il mercato poi forse in Italia per queste cose è molto più ristretto. Il mercato è ristretto, però se c'hai, cioè ti puoi, se è un gruppo valido ti fai conoscere all'estero, se c'hai qualcuno ti porta a giro, quello. Cioè, ci sono gruppi italiani famosi all'estero, a volte anche più famosi all'estero che in Italia, cioè si parla di gruppi di musica estrema, insomma più particolari, come DJ anche. Sì, questo è vero, però forse non era il periodo giusto, non lo so. Ma non saprei, non la conosco, cioè non saprei bene cosa dire, perché non la conosco così bene dall'interno l'industria musicale italiana, quella di ora e nemmeno quella di allora, quindi no, io sai, anche per come andrebbero intervistati, gli andrebbe chiesto. Sì, poi magari anche loro avevano anche... boh, per scelta forse anche. Ma bisognerebbe trovare un gruppo. Un estremo. Un estremo e portarlo qui da noi. Vabbè, non è detto. Poi magari prossimamente inizieremo anche a invitare qualcheduno, insomma, qui. Sì, facciamolo. Vabbè. Facciamolo. Che tu volevi mettere? Sì? Io volevo mettere, allora, questo dici tu del gruppo, insomma, in questa formazione si chiama Electric Banana. In realtà sono i Pretty Things. I Pretty Things è band che ho già passato diverse volte, perché sono una delle band che io amo veramente in maniera viscerale, li ho visti, insomma, avevo già raccontato anche il dopo concerto che andai a vederli a Grassina, al Sicurcai, vabbè. E, però insomma realizzarono questi due album con il nome Electric Banana e non si sa il motivo, cioè almeno io non lo so il motivo, poi uno potrebbe andare anche un po' a approfondire la cosa, non l'ho mai approfondita questa. No, ma io volevo far notare che dica. Ci scrive un ascoltatore o un'ascoltatrice che ci dice, ma dai, funziona questo della diretta pad, bellissima idea. Bene, perché l'altra volta abbiamo avuto dei problemi, sì, l'altra volta ci sono stati problemi audio e non solo nel sito non si riusciva a mandare, ci hanno ascoltato solo in AM, credo. Comunque, a parte sì, il pad funziona, quindi potete scrivere e ci potete anche scrivere... Su questa cosa dell'Electric Banana. Sì, forse io avrei l'idea di forse una persona che ne sa più di me sulla storia dei Pretty Things, però non so se ci sta ascoltando, però vabbè, chiederò. Mandagli un messaggio. Sì, chiederò delucidazioni. No, si sa che sarà a lavorare, è un lavoro un po' particolare. Vabbè, allora questi sono gli Electric Banana, Walk Away, l'ultima traccia del secondo album come Electric Banana, e poi con anche un'altra dicitura, comunque, qui su Random 9, Wombat Radio. E questi erano i Pretty Things nascosti dietro questa sigla Electric Banana. L'assolo finale non è male. Dai, appunto, ora, se, a sentirlo in cuffia secondo me è una cosa spaziale. Non sarà un grandissimo Jimi Hendrix o Jeff Beck, Jimmy Page o tutti i chitarristi metal più bravi, però secondo me è una bella, un bel sound, una bella potenza, è a mio gusto. Poi. Oh, anche a mio, mi è piaciuto. Bravo Paolo, grazie per gli Electric Banana. Grazie Andrea. Prego, prego. Non c'è di. Sempre un piacere. Io invece cambio di nuovo. Ma è così, Perché ho riscoperto questo pezzo di Bobo Rondelli. Lo devo comprare anche l'album. Comprai anche l'album all'epoca. E quindi ho ritirato fuori, ho riscoperto questo pezzo che è Quando non ci sei. Che è veramente suonato bene, cantato bene. Mi fa anche sorridere il testo della canzone. Bobo è Bobo. Tra l'altro, scusa, voglio ricordare che i primi di giugno esce il nuovo album. C'è la foto della copertina, tanto bellina, disegnata, buffa, insomma. Quindi aspettiamo il nuovo lavoro di Bobo. Sa chiamare? Fa bene qui, prova. Proviamo, cioè, sì. Te che conosci tutti, c'hai il gancio? Sì. No, non sono Gianni Minà che c'aveva la cendina tutti F, Fidel. Vabbè. Poi ci si potrebbe provare, dai, sax ci considera. Vabbè, vediamo, dai, intanto si potrebbe, vediamo se si riesce a incrociarlo, se fa il tour e gli si propone, dai. Buono, sì, vai. Bobo Rondelli, Quando non ci sei. Allungo la mano nel letto per cercare te. Mi alzo, mi desto, mi accorgo che più non ci sei. L'angoscia poi sale, io mi sento male, mi corico giù. Ma se pensi di avermi lasciato, sappi che ho sempre desiderato separarmi da te. Un giorno ora dura due mesi o forse di più, e stringo ed annuso il guanciale che sa ancora di te. L'angoscia poi sale, io mi sento male, mi corico. Se pensi di avermi lasciato, sappi che se sono disperato è solo per me. Perché ti amo quando non ci sei, perché ti amo quando te ne vai, ma ora ti prego. Stringi ora me, il giorno una lite, la notte l'amore ci piace di più. La noia poi sale, io mi sento male se non scappi più. Ma se pensi di avermi incastrato, sappi che non ho ancora capito l'amore cos'è. Che ti amo quando non ci sei, perché ti amo quando te ne vai, ma ora ti prego, torna da me. Ops. E questo era Bob Rondelli da, dall'album Disperati Intellettuali Ubriaconi. Sì. Non si è guardato che anno, porca vacca. Sempre questa informazione un po' a mezzo. Sì, siamo un po' distratti. Anzi, ora non dovremmo essere distratti. Perché... No, ora no, non dovremmo, ma data d'uscita 2002. Vedi, ormai sono un bel po' d'anni. 22. Cavoli, mamma mia. Perché maggiorenne. Mamma mia, ero già vecchio. Te sì, io no. Sì, perché lo sto diventando. Ma no, vabbè. C'è tempo. Bene, io sull'onda di Bobo Rondelli volevo mettere un altro soggetto. Ah, scusa, ti interrompo un secondo, ma c'hai fatto caso che Sinner assomiglia a Rocco Siffredi? Sì, me l'ha detto ora, in effetti, perché col casco, in effetti... è veramente incredibile. Pensavo fosse... No, scusate, sì, sì. C'è uno spot pensavo fosse Rocco Siffredi, invece no, sicché tu lo conosci bene Rocco Siffredi. Bene bene di persona no, però insomma come attore qualcosa sì. Insomma la filmografia la conosce abbastanza bene, ti dovessi dire i titoli no. Va bene, si potrebbe sparare, però le storie tese ci hanno, sì, hanno fatto un cameo nel suo film, sì vero. Hanno suonato, ne parlò anche, l'ho visto in un'intervista, io però quel film se l'ho visto, l'abbiamo visto, diciamo. No, io quello non l'ho, quel film lì no. Ah, quello proprio quello no, quello no. Quello no, purtroppo. Ora guardo se lo trovo. Va bene, allora andiamo tra avanti. Tra l'altro sarà uscito un VHS, perché sì, sono gli anni di VHS. Di sicuro, io me ne compravo, mi compravo tutti i film intellettuali. Sì, se non leggiavano, è vero. Va bene, allora andiamo avanti. E, nulla, io volevo passare appunto a un personaggio che in qualche modo Bobo si ispira, anche perché tra l'altro appunto dal vivo fa anche spesso fa anche una canzone di questo personaggio. Sto parlando di Fred Buscaglione. Fred Buscaglione, grande crooner degli anni 50, 60 no, perché praticamente morì proprio all'alba degli anni 60, si schiantò con la sua Cadillac rosa, uno spigo, tornando chiaramente alle 6 di mattina, però insomma secondo me è stato veramente un grande personaggio, un grande cantante, e ha rivoluzionato anche tanto la canzone italiana. E io volevo passare un brano... Ma non era un vero gangster. No, non era vero, era tutto atteggiamento. Era un attore, no. Sì, era un personaggio. Si era creato questo personaggio un po'... della mala, ma anni 20. Sì, un po' così con questi baffetti da sparviero. E insomma, il brano in questione è Fantastica, non è appunto la solita Teresa, non sbagliare, eccetera, però un bel brano, insomma, di Fred. Sono un vero sognatore, musicista e un po' pittore, strimpellando sopra i tasti, molto spesso salto ai pasti, ma ogni notte nei miei sogni lei mi appare da lontano, nel suo mondo m'accompagna, conducendomi per mano. Chi sei così fantastica? Per me l'amor sei tu. Le rose al tuo passare sorridono perché il sole nascosto c'è in te. Sei tu vision fantastica che fai cantar così, e se domando al cuore confessa tu per me, ti griderà fantastica. Thank you. televisione fantastica che fai cantare così. E se domando al cuore, confessa tu per me, ti griderà fantastica, fantastica tu sei per me. E questa era Fred Buscaglione e sue Aster Novas, perché lui voleva proprio questa dicitura. Il suo gruppo era di amici già da diversi tempi, se l'è sempre portati dietro, e appunto era Fred Buscaglione e suoi Aster Novas. Grande, io questo non lo sapevo. Non bene, sì. Non l'avevo mai sentito presentare così. Sì, Fred. Sì, sì. No, no, io ho letto, è uscita una bella biografia qualche anno fa, e insomma ho letto tutta la storia. Un grande tipo, un tipo molto anche rivoluzionario a suo modo, anche contro certi perbenismi. Insomma, si era accompagnato con questa donna che era separata, non so se era marocchina o libica, insomma, comunque, quindi faceva anche un po' scalpore, insomma, negli anni 50, insomma, all'epoca, insomma, era abbastanza. Anche lei grande cantante, che appunto hanno fatto anche diverse cose insieme. Ma senti un po', io invece, ispirato da questo pianoforte, sì, andrei su Tom Waits. Ah, però, E ce l'avevo lì in canna. Tom Waits con un classicone che è stato anche coverizzato, questo è tradotto non letteralmente, ma è cantato in italiano da Bob Rondelli, per l'appunto, sì, che è Non voglio crescere mai. La versione inglese è I Want to Grow Up, cantata anche dai Ramones. Mm-hmm. Yeah. E invece adesso ci ascolto, so, credo sia proprio sua, ora guarda, controllo. Comunque il pezzo che io credo sia di Tom, ma se lo sapete scrivetecelo sul pad, certo, che vi ricordo su direttawombat.vado.li. Se invece non ce lo scrivete, ve lo diciamo noi. Dopo. Tom Waits. Bene, bene, amiche e amici wombati di tutto il mondo, di tutto il mondo e non solo, anche oltre, che ci state ascoltando. I Don't Want to Grow Up, un album in studio dei Descendants, gruppo punk rock americano, registrato nel 1985 e uscito anche nel 1985. Niente, quindi non è una canzone del buon Tom Waits, ma nasce come punk rock song, scritta da Dave Lombardo, se non sbaglio, Tony Lombardo, scusate. Io volevo andare invece in Brasile, anche per ricordare appunto che sto parlando di Marisa Monte, che quest'estate sarà in Italia, e quindi infatti io mi preparo a comprare i biglietti. Farà due date, una a Roma il 15 luglio e l'altra a Verona il 24, credo. E quindi insomma, una di queste due io voglio andare, perché lei veramente mi fa veramente impazzire, mi gaba tantissimo. Proprio ho visto l'ultima tournée, insomma, su YouTube dell'ultimo disco Portas, veramente ganzo. Insomma, arrangiamenti un po' diversi dal solito, un po', forse un po' più, come posso dire, morbidi, però ganzi. E io volevo passarvi invece questo brano, che è una cover di una canzone di Pino Daniele, fatta, sì, fatta in portoghese, Ben Che Se Quis. Allora, questo è il mio portoghese molto... Ben Che Se Quis. Ah, perché te sei genovese, vero? Un po' così, questa voce è un po' così. Poi dopo vi dico in napoletano. Ma sì, scusa, dimmi, dimmi. Ma quando lo fa un tour Scialpi? Ma Scialpi? No, per l'amor di Dio. Non è giusto, vada in Germania. Non so se ti è mai capitato di vedere. Praticamente in un episodio di L'Ispettore Derrick c'è Scialpi, no? Ma sì. Ma che tu dici? No, davvero, io rimasi, ma Madonna. Anche io ci rimango. Ma poi non so se l'hai visto, in che condizione è. No, no. No, guarda la foto e poi dopo si ride. Mettiamola sulla puntata di Random Night. Sì, no, guarda, veramente è una cosa di gomma, praticamente, rifatto. Vabbè, sempre sta un po' di gomma. Sì, vabbè. Dai, passiamo a questo brano. Que a gente não faz por Questa era la bellissima versione di Epoche fa, Epoche fa, napoletano, eppure dovrei saperlo dire, perché una parte di me è napoletana, però ormai sono nato qui. Quindi insomma, ho perso tutto. Hai perso il linguaggio. Sì, sì. Partenopeo. Sì. Partenopeo. Sì, anche perché. Il sangue ti è rimasto. Sì, sì. Perché mio papà parlava molto bene l'italiano, era molto preciso. Ah. Se ogni tanto gli scappava il sabato, ma. però vabbè, insomma, quindi insomma, noi abbiamo sempre parlato. Ma infatti non hai inflessioni particolari tu. No, perché sai, mezzo di qua, mezzo di là, è piombato in mezzo in Italia. La mamma di su, il babbo di giù, quindi vabbè. Vabbè, niente, Marisa Monce qui su Radio Wombat, Random 9, e passo la parola ad Andrea. Io prendo la parola e vi farò ascoltare un po' di ragamuffin, chiamiamolo così, o reggae elettronico, non saprei bene come definirlo. Comunque sto parlando del gruppo Lantern Loop, gruppo francese formato dall'architetto Sir Johnny, King James e DJ O. Mm-hmm. Tutte persone, insomma, un paio di loro sono piuttosto anziani, direi, ma continuano a farci sgambettare e a tirare fuori dei gran bei pezzi, come questo. Questo pezzo che è Florilège ed è un featuring con Lyrixon, Queen Omega e Red Fox. Oh, via. Ladies and gentlemen, Yaman and Lyrixon, your floor right to red, you know, for big up iron to loop. Them just got this, cause we had a best, Strong like a lion when me step on the scene. Cause no father my pray if you see me shit sing. So the most cyber my sign me can't lose me if you win me. Stay cool as the breeze and I flow like the stream. Anytime them see me rise and try to give me a pint. So I'm a young up the cake and no one give me no stress. But no matter what they try them couldn't stop me from stress. So the fire when me burn I make them end them life nice. Chop them ways. Rest of the shop fire in the wicked man place. Watch me burn them on the treble on the bass. Now on your name. Can't stop us now. Can't break us now. Can't hold us now. Such a place our feet up on a solid ground. Can't stop us now. Can't break us now. Can't hold us now. Such a place our feet up on a solid ground. MCs are sick but I'm a sicker. Fire lyrics with spirit, back to being it, win it. Me are the roughest and me are the toughest and ain't no one can claim it. Coming after every minute, the same just carry minute. It's a lava pool, we bring no fireman, come can't extinguish. 100 degrees is like a torch, we burn the whole city down. Like a phoenix, me rise about a destruction. Burn all corruption, burn them confusion. Burn the illusion and the vaccination. Cause Babylon, them have a plan to kill the population. With unification, we're like the conquering lion. Stand up for your rights, every man and woman. The future is the seeker of our generation. The way me energy up and like an operator, operating for the kings of kings of supreme creator, creating this shit through the music only getting greater. Greatness to be attained, never mind the haters. You see the hate and get me stronger. No one can stop the power from within. So I could never make a suffer, suffering no trust, no hunger. You know life provides everything. Put the wisdom in and feel it in the birth of the wind. Get up your lazy body, stop procrastinating. Chip up all the bucket, every month we do a thing. With respect and manners, love and understanding. Hold up for meditation, no compromise. Cause me out of us, them just got this, Blood clot, money. No make sense your count come rich spiritually. Endless amount, God bless me lyrically. East, west, north, south, mountains and valley. Control our routes, most I am a daddy. Fire up your outrage, God bless me vocally. Spread love all about to the world globally. No carry doubts, confidence and I'm a shally. I'm the best, I'm the greatest, I am him. First thing I could do was to concentrate. Red, yellow, green, blue, get my colors dead straight. 5, 4, 3, 2, number one, me penetrate. Element, P, Q, words, power, sound, sight. I am in, you are you, learn to differentiate. Patience, carry true, so I throw a fate. Respect, you are taught not to violate. Only take a few and share the rest from my plate. I know the MC the sick, but I'm a sicker. E questi erano Lentor Loop. E vorrei ringraziare l'ascoltatore o l'ascoltatrice che ci sta scrivendo sul pad. Io non vedo da qui che dice. No, si parlava della canzone Don't Want to Grow Up. Allora fai gli affari, cioè mi lasciai fuori. Non ti perdere questo. Niente da fare. Ok. Pezzo tuo messo. No, dimmi cosa. Non leggo, dai, dimmi cosa stavate parlando. Si diceva che. Non mi sedere fuori da questo. No. Bene, allora per Paolo e gli ascoltatori che non stanno leggendo il pad, questo ascoltatore ha scritto al regionale dei Ramones, Tom Waits la riprende a fine degli anni 90. In realtà noi si era letto che, insomma, appunto è una punk song dei Descendants uscita nell'85, poi Tom Waits l'ha ripresa nel 92, giusto? Sì, avevi detto nel 92. Nel 92. Anche se e Ramones poi l'hanno rifatta, io ce l'avevo sull'album I Adios Amigos, che credo sia l'ultimo album che hanno fatto. Ho capito, sì, ma mi pare era un album di cover, perché loro fecero un album di cover, i Ramones. No, quello nello specifico non credo fossero tutti cover, no. Va bene, dai, andiamo avanti. Io andiamo avanti. Sì, in qualche modo sì, si sta parlando di gruppi, di personaggi americani. Noi andiamo, vado in America qualche decennio prima, anni 60. Questi sono i Monkees, questa band che è nata, si dice che è nata a tavolino per fare, diciamo, i Beatles americani. Ma se l'ha detto, non sì, è il primo sì. pezzo tu ci fai cioè, sì, perché strano. A me piacciono tantissimo, cioè, sono sempre considerati un gruppo minore, un gruppo per le ragazzine, per capirsi, però secondo me hanno fatto anche delle belle cose, insomma, di quel genere, fatte bene. Poi sicuramente avevano dei grandissimi produttori, dei grandissimi scrittori di brani, fra cui Carole King, e poi c'è di mezzo, c'è collaborazione, credo, addirittura anche Frank Zappa. Sicuramente nel film che i Monkees fecero, Head, c'è anche Frank Zappa, però credo che abbia scritto anche qualcosa. Comunque, bando alle ciance, Shade of Grey, Monkees. When the world and I were young, just yesterday, life was such a simple game a child could play. It was easy then to tell right from wrong, easy then to tell weak from strong, when a man should stand and or just go along. But today there is no day or night, today there is no dark or light, today there is no black or white. Oh, may shade of gray, I remember when the answer seemed so clear. We we had never lived without or tasted fear. It was easy then to tell truth from lies, selling out from compromise. Who to love and who to hate, the foolish from the wise. But today there is no day or night. Today there is no dark or light. Today there is no black or white. Only shades of gray. Protect your heart and how much to care. But today there is no day or night. Today there is no dark or light. Today there is no black or white. Only shades of gray. Only shades of gray. Andrea risa tutto il tempo, questa, o li metteva bene o lo faceva proprio ridere. Mi fa ridere perché no, mi fanno queste sonorità, mi ispirano ilarità, ecco. Uno sta così bene, poi dipende. So. No, a me fa, io sa un po', queste cose fanno parte della mia infanzia. Della tua fanzia. Della mia fanzia, sì. Allora, a proposito di fanzia, non so se vi ricordate, c'era un gruppo di sole donne che si chiamava Bananarama. Porca miseria, questi parla degli anni 80. Gli anni 80. Ah, oh, una ventata. E furono famose con il pezzo Venus. Sì, però questo che metti è una cover. No, è l'originale. Ah, ecco, ma fregata, è vero. Perché da lì non ci vedi benissimo. E poi no, distratto, no, perché, no perché, ho, perché ho letto solo il titolo. Ok. No, per... no, non ho letto i... No, ho sbagliato. L'avevo letto in realtà il gruppo e l'ho confuso il titolo, vabbè. Bene, detto questo, il pezzo in realtà è di questo gruppo, si chiamano Shocking Blue. Sì, è vero. Che è un gruppo che ha scritto questo pezzo, è uscito nel 1969, e sono un gruppo dell'AIA, sono olandesi. Insomma, sì, ma se ti dico io me lo ricordo, io quando è uscito questo brano, avevo 6 anni. No, sì. Poi sei sempre stato appassionato di musica, quindi sì. Ti colpì profondamente. No, non mi piaceva. Speciale. No. Ora da 6 anni, voglio dire, però non... Va bene, vediamo se ti fa un altro effetto stasera. Sì, Venus, sì. Degli Shocking Blue. Shocking Blues. Continui da solo, quanti ricordi, quanti ricordi. Vabbè, allora farò un... Teresa Monte è la più sonata su Random Nine, che è invece Marisa. Teresa è la sorella, forse no, non lo so. Vabbè, questo si sa chi è, vero? Presumo, sì, presumo. Allora gli farò un CD, va bene? Certo, tutto con Teresa Monte. Sì, con Teresa Monte. Va bene, io volevo passare invece a una band anche qui passata molto spesso, abbastanza spesso, i Love di Arthur Lee, band americana. Il titolo di questo brano lo dici, sì. È noto. No, si no. Può dire anche in italiano, cioè, questa casa non è un albergo. Però in realtà non è nemmeno la traccia più famosa di questo album. Questo album è Forever Change, un album veramente seminale, questo lo posso dire proprio con l'S maiuscola. È un album in cui il lavoro è durato vari mesi e poi è uscito insomma alla fine degli anni 60. È veramente il loro capolavoro, e questa traccia fa parte di questo capolavoro di cui ho già passato diversi brani. Meno quindi, male, perché capito, essendo seminale almeno ci hai inseminato. Certo, alla fine dei semi vediamo se nasce qualcosa. Quindi a house is not a motel. At my house I've got no shackles, you can come and look if you want to. Through the halls you'll see the mantles where the light shines dim all around you. And the streets are paved with gold, and if someone asks you, you can call my name. You're just a thought that someone, somewhere, somehow feels you should be here. And it's so for real to touch, to smell, to feel, to know where you are here. And the streets are paved with gold, and if someone asks you, you can call my name. You can call my name. I hear you calling my name. That I'm through singing, the bells from the schools of walls will be ringing. More confusions, blood transfusions, the news today will be the movies for tomorrow. And the waters turn to blood, and if you don't think so, go turn on your tub. And if it's mixed with mud, you see it turn to gray. Then you can call my name. I hear you calling my name. Thank you. E questi erano i Love, che le lasciamo sfumare da questo album Forever Change, come ho detto, veramente un capolavoro. Io vi lo consiglio di ascoltarlo tutto d'un fiato, perché è veramente meraviglioso. E lo faremo, lo faremo. Io invece ovviamente andrei su sonorità leggermente più pesanti, ovviamente no, ma così mi è venuta. E fa bene. E vi metto un pezzo di Rammstein. Siccome lo risentivo l'altra sera, ho detto no cazzo, questo lo devo passare per forza. Sto parlando di Du Hast, pezzo di Rammstein del 1997, dall'album Sehnsucht. Si pronuncerà così più o meno. Sehnsucht. Registrato a Malta, appunto, nel 97. A Malta? Davvero. E che dire, ascoltiamocelo. Questo è un bel pezzone industrial, metal. Questi erano i Rammstein con la loro Du Hast. Un bel sound teutonico, molto teutonico, ci sta benissimo anche il tedesco, infatti. Allora io volevo un po' correre, perché volevo farti poi mettere l'ultimo pezzo a te, e siccome questo brano è abbastanza, mai una gioia, questo brano è abbastanza lunghino, vedo, e insomma presento velocemente Isaac Hayes, polistrumentista, arrangiatore eccetera, è famoso per il brano Shaft della colonna sonora. Questo poi si dilettava spesso a fare cover, stravolgendole completamente. Questa è una di queste. Questa è una di queste. Senti, Our Day Will Come, Isaac Hayes, qui su Random 9. Our day will come. And we'll have everything. We'll share the joy. Falling in love can bring. If we just wait a while, no more tears for us. Just think love and wear a smile. Our dreams have magic because we're all. Stay in love this way, 'cause our day is gonna come. Oh that falling in love can bring. Thank you. questo era Isaac Hayes. Non dico quello che ha detto fuori onda Andrea, ma insomma non ho detto niente. Ah no, prima. Brano da conquista, sì, Conquistadores. Sì, Conquistadores, sì, da serata, vabbè. E nulla, no, a me anche queste cose mi piacciono. Io insomma, mi piace spaziare, dai. Poi oggi mi rendo conto che ho messo parecchie cose molto soft, diciamo. Sì, sì, sì, sì. C'è la vecchiaia. No, questo rientro rilassato in radio. Sì, sì, forse, sì, così. Sì. A cupola la primavera lo fa. Sì, sì, sì. Oh, io davvero. Va bene, no. Il filo di pesco, il volteggio nell'aria. Sì, sì, no, guarda, poi venendo qua, tra l'altro, appunto, guardavo il cielo, mi calpava un monte, sto azzurro, sì, che, boh, si vede, dai, così, un po' lo spirito primaverile, insomma, che poi è strana questa primavera, è stata, insomma, è per ora. Piovevo fino a ieri l'altro, era novembre, fino a ieri, sì, quindi sono a sega. In effetti, insomma, si perde un po' infatti non so se hai visto, c'è una borsa strapiena di robe, di vestiti, di insomma giubbotti eccetera, perché la mattina è un pochino fresca ancora, poi non so se piove, sicché insomma vabbè, lasciamo no, è giusto vestirsi, è un periodo da vestirsi a cipolla, sì, vestirsi sì, a sì, cipolla sì. Bene, ma ridendo e scherzando, insomma, noi siamo sì. arrivati alla fine pure. Siamo arrivati certo. all'ultimo pezzo sì No, sta zitto. Ci dà l'ultimo pezzo. Ci dà il rigore? Forse c'è il rigore per la Fiorentina, so, allo scadere praticamente. Scusate, l'attimo di distrazione. Da vedere, Bucci, occhiane, denti, in aria, cartellino, rigore per la Fiorentina. Beh. No, che si farà? Io via, Bene, dai, bene. Detto questo, io saluto tutti i Wombati, le Wombati in ascolto. Sì. Do appuntamento a mercoledì prossimo. Speriamo sì. di farcela. Ah, io diciamo che numero siamo? Dovrebbe essere la 54. Ah, puntata numero 54. Diamo un'occhiata al pad. Se ci aveste grandi ragazzi, non sognate di mollare questo programma o mi sentirò solo. Va bene. Sì, dai. Cercheremo dai. Di resistere. Io ti ho detto no. Ah, no, ma perché l'hai detta anche in diretta? No, io non ho detto che no, scusa. No. C'è un rigore per la Fiorentina, sì, si sta chiudendo il programma. Sì. Persone ci scrivono, grazie. Cercheremo di rimanere con voi, per stare con voi, perché ci fa piacere. Sì. L'ultimo pezzo volevo mettere per chiudere, che fa chiusura, dato il pezzo d'inizio di Paolo, io chiuderei con questo. Pezzo non scritto ma cantato da Mara Redeghieri, Mara degli Usmamò, grande sì, che insomma fece quest'album a inizi 2000 che si chiama Dio Walzer, e già avevo messo un pezzo che era il no, scusate, mi sono distratto anch'io, comunque L'Individualista, e qui... invece oggi ci ascoltiamo un bello stornello d'esilio. Bene, vi saluto, vediamo sul aspettiamo un attimo, dai, ormai scusate, ma c'è il rigore della Fiorentina. Vediamo come va. Oddio, io boh. Oi. Dai, ormai ci siamo, dai. Boom! Ma ce l'ha fatto! Ce l'ha fatto! Cioè, sembrava l'avesse parato. Sì, infatti. Cioè, mai una gioia stavo per dire. Infatti. Invece, ma non è finita. Siamo all'83. Noi vi salutiamo. Ciao a tutti. Ciao. Un bacio. Maria De Ghieri. O profughi d'Italia, all'avventura si va senza rimpianti né paura. Nostra patria il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero. Nostra patria il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero. Ribelle ancora ci sta, dei miseri le turbe sollevano. profumo d'ogni nazione, messi al bando, dovunque uno sfruttato si ribelli, noi troveremo schiere di fratelli. Nostra patria il mondo intero, nostra legge la libertà, ed un pensiero, nostra patria il mondo intero, nostra legge la libertà, ed un pensiero, ribelle in cuore ci sta. Raminghi per le terre e per i mari, per un'idea lasciamo i nostri cari, passiamo di plebivare tra i dolori della nazione umana. Precursori, nostra patria il mondo intero, nostra legge la libertà, ed un pensiero, nostra patria il mondo intero, nostra legge la libertà, ed un pensiero, ribelle in cuore ci sta. Ma torneranno Italia i tuoi proscritti ad agitar la face dei diritti. Nostra patria il mondo intero, nostra legge la libertà, ed un pensiero, nostra patria il mondo intero, nostra legge la libertà, ed un pensiero, ribelle in cuore ci sta.